Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. 5 decibel di rumorosità in meno e il 20% di aderenza in più, e questo grazie a un nuovo conglomerato bituminoso che incorpora vecchie pavimentazioni stradali e gommino ottenuto da pneumatici esauriti ridotti in polvere. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Questi sono gli obiettivi di Nereide, progetto europeo LIFE, che entrerà nel vivo proprio quest'anno, quando questo nuovo asfalto verrà messo in posa nel corso delle estate, realisticamente a settembre, in alcune aree della provincia di Lucca. Il progetto, ecco, lasciatemi dire, insomma, si inserisce in un filone di cui si vedono sempre più esempi in settori come quello delle costruzioni e delle infrastrutture, dove il consumo di materiali è enorme e dove quindi, quando si trova il modo di sostituire materie prime vergini con sottoprodotti di altri processi, meglio ancora se con dei rifiuti, l'impatto è davvero enorme. Ebbene, ne parliamo con Pietro Leandri, professore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa, che ha il coordinamento del progetto. Buonasera, buonasera Leandri. Buonasera a tutti. Allora, intanto diciamo una cosa, l'uso del gommino di pneumatici nelle pavimentazioni stradali non è che sia un'idea recentissima, però quanto in realtà è applicata questa tecnica, perché è poco applicata e che cosa aggiunge il vostro progetto? Diciamo che l'aspetto innovativo del nostro progetto, ovviamente, come già ha detto lei, non è quello di reimpiegare il polverino da pneumatici fuori uso nelle pavimentazioni stradali, ma l'obiettivo è proprio quello di migliorare la sostenibilità di quelle pavimentazioni che vanno a riciclare il polverino di gomma. Migliorare la sostenibilità in che senso? Ridurre l'utilizzo di materie prime, quali aggregati lapidei, a vantaggio ovviamente del riutilizzo o il reimpiego di altri materiali, quale polverino di gomma appunto e aggregati lapidei provenienti da pavimentazioni fresate. A tutti è capitato, no, di fare un tratto stradale dove si vede che il manto stradale è stato grattato via, diciamo così. Ecco, questo materiale che viene recuperato, questa fresatura, voi la riutilizzate insieme del polverino di gomma per fare dei nuovi asfalti. Non solo questi due materiali, in che percentuale? Allora, consideriamo che come percentuali ed impiego si prevede per il polverino di gomma di utilizzare da 1 a 2 punti percentuali, sì, non massimo di 3, che comunque sono delle elevate percentuali, se si pensa proprio al fatto che il polverino di gomma comunque sia un materiale abbastanza leggero, la gomma, quindi il nostro metro cubo di conglomerato non è un 3% in peso, ma sarà anche un 6-7% in volume, quindi è una notevole percentuale. Mentre di materiale fresato, quindi materiale, sì, proveniente da vecchie pavimentazioni, si prevede un reimpiego di percentuali attorno a un 30%. Ecco, ma questa quota di manto riciclato può essere anche tirata su direttamente sul posto? Cioè uno fresa l'asfalto e riutilizza quello che ha recuperato? No, questo non è possibile perché comunque il materiale fresato che viene prelevato dalle vecchie pavimentazioni e necessita di essere riclassificato a livello di pezzature, quindi sarà necessario apportarlo in impianto, triturarlo, poi riclassificarlo e ovviamente poi se i suoi requisiti sono idonei poterlo reimpiegare per la realizzazione di queste nuove pavimentazioni. Però volevo aggiungere questo aspetto che va verso la sostenibilità ambientale. Il fatto che queste pavimentazioni verranno realizzate, quindi sia in termini di confezionamento che di stesa, a tiepido. Ossia, questo è un altro aspetto innovativo, che attualmente tutte le pavimentazioni che sono composte da polverino di gomma vengono confezionate a temperature mediamente più alte di quelle... Quindi siamo intorno ai 160-170 gradi, sì, se ho capito bene, no? Uguali di 170 gradi, proprio perché il polverino di gomma per essere lavorato richiede delle temperature leggermente superiori ai normali conglomerati bituminosi. Noi cercheremo di reimpiegare il polverino di gomma insieme agli altri materiali a temperature di 30-40 gradi in meno rispetto alle normali temperature di stesa. Con questo si avranno notevoli benefici in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico se si pensa alla riduzione delle emissioni e gas una volta e durante la stesa. Insomma, a tutti è capitato di sentire il forte odore dell'asfalto appena depositato. Senta, ancora più interessante, una sperimentazione che invece farete l'anno prossimo, dove sperimenterete qualcosa di assolutamente innovativo. Di cosa si tratta? Sì, in collaborazione con uno dei partner, che è il Belgian Road Research Center del Belgio, andremo a realizzare, sarà il primo caso a livello nazionale, una pavimentazione di tipo PERS, dove PERS è un acronimo che sta per Poor Elastic Road Surface, che non è altro che una pavimentazione di tipo poroso, quindi drenante, sì, però al suo interno ha un contenuto di gomma che si aggira attorno dell'ordine del 20% in peso, quindi si capisce già da questo. È quasi tutta gomma, metà gomma sostanzialmente. Sì, è come se fosse una pavimentazione, diciamo, sintetica, e con la quale è possibile raggiungere abbattimenti di rumore di circa 12 dB, un valore che non è possibile con nessun tipo di pavimentazione. Ecco. Grazie Pietro Leandri. Grazie a voi. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani.